L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, il nostro appuntamento per raccontare l'Europa anche da altri punti di vista. L'attualità politica ed economica viene raccontata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo di raccontare un po' l'Europa, delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, tante radio diverse, tante lingue diverse per uno stesso racconto. Le coordinate virtuali per trovarci: chiocciola Euronet Plus R24, oppure il mio account personale @FedericoTaddia. Ci trovate sia su Twitter sia su Facebook e lì potete scovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Una puntata con tanti ospiti, una puntata con tante storie, e partiamo da quello che forse è il futuro dell'Europa, un futuro che è già presente: l'allargamento. Quanti paesi formano l'Unione Europea? 26. 32. 36, no idea. Credo che sono 28. 13, 12. Bello, io sono pure caro. 10. 21. 24. Quali sono alcuni dei paesi che nel 2004 sono entrati in UE? I think Poland, Romania. No, Romania no. Poland, Lituania, Letonia, Estonia. Quello che state ascoltando è un video realizzato all'interno di un concorso che si è concluso ieri. Raccontare 10 anni insieme nell'Unione Europea, un progetto dall'allargamento all'unità, un progetto lanciato nel decimo anniversario dell'entrata nell'Unione Europea di 10 Stati membri, entrati a far parte dell'Unione appunto nel 2004. C'è con noi Agnieszka Hoppen, primo consigliere dell'ambasciata di Polonia, convocata per raccontarci il senso di questo progetto. Buongiorno Agnieszka, buon sabato. Buongiorno a tutti. Come mai raccontare questi 10 anni? Perché bisogna guardare indietro per guardare in avanti in Europa? Ma diciamo, proviamo sempre di parlare di queste cose importanti quando ci sono le date tonde, perché permette di interessare più la gente e si pensa più a questi momenti importanti. Diciamo, se ne parla sempre dell'Unione Europea, del passato, del futuro, ma quando ci sono le date speciali come 9 maggio, come per noi 1 maggio, 2004-2014, se ne parla di più e diventa più importante, e anche voi in media siete più interessati, allora c'è la possibilità di fare promozione di questa storia recente, anche nostra vita contemporanea, no? nella grande famiglia. Allora abbiamo approfittato di questa data di parlare proprio dell'Unione Europea di ieri e di oggi, anche del futuro. Assolutamente. Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, queste le 10 nazioni coinvolte. I ragazzi e le ragazze di scuole di tutta Italia hanno lavorato a dei progetti, ci sono stati vari vincitori, tra i quali il liceo scientifico Cavour di Roma. Con noi c'è Arianna, che è una studentessa della 4ª D del liceo. Ciao Arianna, buon sabato. Buongiorno, ciao. Ciao Arianna, cosa avete realizzato voi? Allora, diciamo che è stato sicuramente un progetto molto interessante, che ci ha permesso di conoscere determinati paesi, l'entrata, l'annessione di questi paesi, che purtroppo la maggior parte, come poi abbiamo testato insomma con le nostre interviste, non era a conoscenza della maggior parte insomma della cittadinanza italiana. Sicuramente insomma c'è stato un grande impegno da parte di tutti noi. Il progetto inizialmente diciamo ha consistito in una ricerca, ricerca, un interesse verso la cultura, l'etnia, la lingua di questi popoli. E successivamente appunto siamo andati in giro per Roma, nel centro di Roma, a testare poi quanto conoscessero realmente gli italiani, i romani di questi paesi. E cosa ne è uscita? Come? Cos'è uscito? C'è tanto. Allora, purtroppo c'è una grandissima ignoranza. C'è poca diffusione di conoscenze in giro, perché è davvero insomma disarmante quanta ignoranza ci sia. Cioè, persone che alla domanda insomma quanti sono i paesi dell'Unione Europea sono arrivati anche a dire insomma 35-37, cioè delle cose che lasciano un po' così. Insomma, certo. Appunto, delle risposte disarmanti. Però io credo che questo progetto comunque abbia aiutato tutti noi ad un interesse verso la solidarietà con, certo, questi paesi che sono entrati a far parte dell'Unione Europea. Mm-hmm. Quindi No, dicevo appunto, la conoscenza reciproca, Agnieszka, era un po' questo l'obiettivo concreto, l'obiettivo reale di questo Ma progetto? Lo scopo di questo concorso era soprattutto di stimolare nei giovani l'impulso alla ricerca per una migliore conoscenza di 10 paesi, sia della storia, della cultura, dell'economia, geografia, eccetera. E penso che questo scopo l'abbiamo ottenuto, perché i lavori che hanno fatto studenti parlano di tutti questi temi, parlano della cucina dei nostri paesi, dell'arte, della musica. Allora si vede che è stata veramente una ricerca approfondita. Grazie davvero ad Agnieszka Hoppen, primo consigliere dell'ambasciata di Polonia. Un grazie anche ad Arianna Mininni. Arianna, se ti offrissi un biglietto aereo domani, quale tra le 10 nazioni sceglieresti per farti un viaggio e non per andare a vivere? Qual è quello che ti ha incuriosito di più? Allora, sicuramente la Lituania. Sì, La Lituania. Uh-huh. Cioè, io, guarda, credo che in realtà ogni paese poi ha un suo fascino. Certo. Certo, se dovessi scegliere Lituania, però guarda, se potessi io andrei davvero dappertutto, perché viaggiare poi alla fine credo che sia il miglior processo per conoscere gli altri paesi, le altre culture, etnie appunto, e io mi trovo un po' così, però ecco, se dovessi scegliere sì, la Lituania, proprio per un aspetto della culinario, della lingua, insomma, sono rimasta molto affascinata. Ok, grazie davvero Arianna, buona Europa. E questo era il progetto sull'allargamento. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Borse di studio MAE per il Collegio d'Europa in Belgio e Polonia. Siete laureati e vi piacerebbe fare un master nel settore degli studi europei? Se avete meno di 35 anni, il Ministero degli Affari Esteri ha un'opportunità che non potete lasciarvi sfuggire. Una borsa di studio per seguire un master presso il Consiglio d'Europa da settembre 2015 a giugno 2016. Sarà possibile scegliere tra specializzazioni diverse in due differenti campus della prestigiosa istituzione europea di formazione accademica post laurea, Bruges e Varsavia. Per candidarsi è necessario possedere un'ottima conoscenza dell'inglese e del francese e presentare la propria candidatura online sul sito del Collegio d'Europa, col.europe.eu, entro e non oltre il 31 gennaio. L'altra Europa. Son morto con altri 100, son morto però bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento. Era il 27 gennaio del 1945 quando i sovietici liberarono Auschwitz e Birkenau, e quella data è diventata la data simbolo per l'Europa, per il giorno della memoria, non dimenticare, non rivivere, non riscrivere quel passato. il giorno della memoria anche quest'anno ritornerà con tantissime attività, per fortuna. Sono anche i 70 anni, quindi, come abbiamo detto anche poco fa, le cifre tonde aiutano a enfatizzare, ma ahimè questa data non ha bisogno di enfatizzare, perché ha già con sé un carico di significato, di ricordo, anche di empatia che tutta Europa si porta con sé. E anche noi vogliamo celebrare a nostro modo questa data e lo facciamo ospitando due sorelle che quel giorno, quel 27 gennaio del 1945, ad Auschwitz c'erano, Tatiana e Andra Bucci, a cui diamo il benvenuto. Ciao Tatiana, buon sabato. Buongiorno. Ciao, come stai? Come state? Bene, bene, bene. Appena tornate da Auschwitz-Birkenau, siamo arrivate in una piccola stazione nei pressi di Verona ed eravamo quasi 700 studenti della regione toscana. Uh-huh. E qualche giorno prima, con il MIUR, il Ministero dell'Istruzione, con 300 circa studenti, un po' di tutta Italia. È un ricordo vivo, sì. E rimarrà per sempre un grido di disperazione nell'umanità. Questo è quello che ha affermato il Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Sono 70 anni, Tatiana, c'è bisogno di ricordare, vero? Ce lo ricordiamo, sì, ci ricordiamo molte cose, certo non i ricordi di quelli che erano più grandi di noi, però insomma i ricordi ci sono e sicuramente, anche se per noi sono pochi, resteranno indelebili sicuramente. E cosa scatta nell'incontro con i ragazzi, che voi ne incontrate tantissimi durante l'anno, poi in particolare in questi giorni dove fate questi viaggi, cosa vi chiedono al di là del cosa ricordate? Cosa cercano in voi? Ma io credo che hanno bisogno di noi testimoni che li accompagniamo nei loro viaggi, nei campi, per completare la loro preparazione fatta sui libri e sentire i testimoni, il loro vissuto, il nostro vissuto, credo che completi la loro preparazione e per far capire veramente come erano le cose, perché sai, i libri, lo sai meglio di noi, sono una cosa un po' fredda, astratta. Certo. Invece vedere delle persone che ti raccontano le cose come sono state, li coinvolgono molto e li sentiamo veramente molto vicini a noi. Tatiana, una domanda che esula un po' dal viaggio, dall'esperienza, però entra a pieno titolo nel nostro programma. Come hai vissuto il concetto di Europa? Io mi sento molto europea, anche perché abito in una città che è il cuore dell'Europa, dove abbiamo l'Europa, c'è la Commissione, c'è il Parlamento, quindi mi sento completamente europea. Prima hai nominato il Presidente Schulz, devo dire che ho apprezzato moltissimo le sue parole. Certo. Tatiana, al tuo fianco c'è Andra, se c'è ce Andra, la vuoi passare, sì, così. Senz'altro te la passo. Grazie. Eccola, ciao. Ciao Tatiana. Ciao Andra, com'è stata questa esperienza? Com'è ritornare là 70 anni dopo? È sempre molto difficile e molto duro, perché non è semplice. Quando si varca quel cancello, che questa volta era chiuso perché stanno preparando per i 70 anni, quindi non l'abbiamo visto. Come, anche se noi non siamo entrati da quel cancello lì, ti fa un'impressione, è brutto, ecco. Uh-huh. è molto difficile, è pesantissimo. E in effetti, come ti ho detto Tati, che visto che siamo state lì anche tanti giorni, siamo doppiamente stanche. Certo. E i ragazzi e le ragazze arrivano con nuove consapevolezze, arrivano e sanno quello che è successo in quel luogo? Sì. Uh-huh. Sì. Ad esempio, questi della Toscana hanno ricevuto già a dicembre il libro che racconta la nostra storia, tanto per dirti, e poi anche storia sulla Shoah, poi gli insegnanti danno a loro ulteriori chiarimenti, quindi arrivano sempre più preparati, li trovo i ragazzi che sono sempre più preparati, e sono bravi, molto vicini a noi, molto attenti, molto dolci, sono veramente bene, non abbiamo mai avuto problemi con nessuna contestazione, con niente, proprio sono bravissimi. Andra, qual è il consiglio, il messaggio che vorresti dare in occasione di questo 27 gennaio del 2015? Vorrei dare il messaggio, insomma, viene spontaneo dire che non si ripeta mai più, una cosa del genere. Io mi auguro, penso che sarà difficile che si possa ripetere un'altra Shoah. La gente è diversa, la gente forse si interessa di più, ha più possibilità di avere i contatti. C'è soltanto internet, anche se internet non sempre è proprio il massimo. Certo. Però puoi sapere alcune verità e non solo ascoltare quello che magari gli altri ti dicono. Leggere i giornali, i libri. Quindi la forma, la propria testa, dico sempre. Lo studio, la formazione e l'incontro, sì, che è quello che voi fate quotidianamente. Sì. Grazie, certo, davvero ad Andra, grazie a Tatiana Bucci, sorelle, le uniche sorelle sopravvissute ad Auschwitz. Grazie davvero per la vostra testimonianza. Buon sabato ancora e buon giorno della memoria. Europost-it. Concorso fotografico Be Our Guest Photographer. In occasione dell'Anno Europeo per lo Sviluppo 2015, il Parlamento Europeo ha rilanciato il concorso fotografico Be Our Guest Photographer. Tutti i cittadini maggiorenni di talento sono invitati ad inviare le loro foto ispirate a un tema diverso ogni mese. Un comitato di redazione selezionerà il vincitore del mese e le 10 foto migliori che saranno pubblicate sui social media del Parlamento potranno essere votate dal pubblico. Sia il vincitore del premio della giuria che quello del pubblico saranno invitati alla sessione plenaria a Strasburgo a novembre. Per partecipare è necessario inviare il proprio scatto all'indirizzo email webcom-flickr@europarl.europa.eu. Il termine per il primo tema dell'anno, l'Europa nel mondo, è il 31 gennaio. Europa e povertà, ahimè, un binomio di cui abbiamo sentito e stiamo sentendo molto parlare in questi anni. La Commissione europea ha finanziato un biennio di studio sul reddito minimo nel vecchio continente, uno studio che ha risultati assolutamente interessanti. Diamo il benvenuto per parlarne a Nicoletta Teodosi, presidente del Collegamento Italiano di Lotta alla Povertà, membro italiano del network europeo antipovertà. Buongiorno Nicoletta, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a lei. Qual è la fotografia della povertà in Europa oggi? Diciamo che è in continuo e progressivo aumento. Siamo arrivati a 124 milioni di persone in povertà. Questo aumento non sembra arrestarsi, nonostante dal 2000 siano attive strategie per l'inclusione sociale i primi 10 anni degli anni 2000 e tra il 2010 e il 2020 la strategia Europa 2020, ma non sembra arrestarsi, almeno nel nostro paese. Mm-hmm. www.cilap.eu, intanto il sito del CILAP. Esattamente. Nicoletta ha sottolineato almeno nel nostro paese, questo significa però che ci sono paesi in controtendenza? Ci sono i soliti paesi che invece hanno delle misure che contengono, delle misure nazionali che contengono la povertà, come i paesi del nord Europa. Mm-hmm. Vediamo Danimarca piuttosto che Olanda. Mm-hmm. E quindi ci sono paesi con dei sistemi di welfare nazionali non frammentati come li abbiamo qui in Italia, che ancora continuano a tenere. Poi consideriamo anche la crisi in Europa, che è ancora persistente, con le politiche di austerità che sono state impostate dal 2008 ad oggi. Quei paesi più fragili in termini di welfare, in termini di offerta e di servizi alle popolazioni, ovviamente ne risentono maggiormente. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Euronet Plus R24, oppure il mio account personale @FedericoTaddia, potete seguirci sui nostri social network, Twitter e Facebook, per ritrovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. Oppure vi ricordo ancora euronetplus.eu, il portale del network al quale apparteniamo. Con noi Nicoletta Teodosi, presidente del Collegamento Italiano di Lotta alla Povertà, per commentare questa ricerca finanziata sulla povertà in Europa, finanziata dalla Commissione Europea. E Nicoletta, un focus particolare dello studio che avete fatto riguarda il reddito minimo. Sì, dunque noi abbiamo realizzato durante il 2013-2014 questo studio di osservazione, di mappa, diciamo così, delle misure di reddito minimo in Europa. Abbiamo cominciato nel 2013 con i primi 5 paesi pilota, tra cui Italia, sì. Italia, Ungheria, Danimarca, Belgio e Irlanda. Di questi 5 paesi, 2 nel 2013 non avevano la misura di reddito minimo. Nel 2014 è stata allargata ad altri 26 paesi, sempre con le relative reti appartenenti a European Anti-Poverty Network. Nel 2014 l'Italia e la Grecia erano i paesi ancora senza una misura specifica di reddito minimo. Che cosa viene fuori? Sì. Da questo studio viene fuori un'Europa a diverse marce, a diverse velocità. Intanto perché nella stragrande maggioranza dei paesi esiste una misura specifica sul proprio di reddito minimo, sia di contrasto alla povertà. Sì. In più emergono delle proposte che vengono fatte, perché era anche questo l'obiettivo che richiedeva la Commissione, delle proposte che sono emerse. E tra le proposte c'è sicuramente la richiesta di una misura normativa, di una norma vincolante per tutti gli Stati membri. Infatti noi che cosa chiediamo? Chiediamo che ci sia una direttiva europea, sì. Perché di reddito minimo non se ne parla soltanto dal 2014 o dal 2015, di reddito minimo se ne parla dalla fine degli anni Ottanta. Mm-hmm. E quindi nonostante dal 92 ci siano state delle comunicazioni, delle decisioni, delle risoluzioni dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea, dei contributi dal Comitato Economico e Sociale affinché in Europa venisse istituita una misura di reddito minimo, soltanto alcuni stati, diciamo la stragrande maggioranza degli stati, hanno risposto, mentre ancora in Italia non c'è. Ci sono delle misure spot ancora sperimentali in Italia. Noi abbiamo cominciato a sperimentare dal 97 una misura di reddito minimo, ma a tutt'oggi non possiamo dire che c'è una misura di reddito minimo di contrasto alla povertà. Mm-hmm. Così come E soprattutto mi pare di capire che insomma la richiesta sia anche quella di una politica organica, non fatta sì, a spot, non a semplici toppe. Sì, lei ha perfettamente ragione, ed è proprio questo il problema. Il problema è che nel 2008 la più importante indicazione che noi abbiamo ricevuto tra il 2008, a livello europeo sto parlando, sì, tra il 2008 e il 2010 sono risoluzione del Parlamento europeo che parla di inclusione attiva, sì, e una comunicazione al rafforzamento della risoluzione del Parlamento europeo da parte della Commissione proprio sul reddito minimo adeguato. Mm-hmm. E quindi ogni Stato membro avrebbe dovuto varare delle norme nazionali. Consideriamo che il reddito minimo è una misura che rientra nelle politiche sociali, e le politiche sociali non sono di competenza europea, anche questo è il problema, ma sono di competenza degli Stati membri. Mm-hmm. E quindi ciascuno Stato membro ha una autonomia. Ricordiamo il sito del network, che è www.eapn.eu. Questi i risultati della ricerca, queste le sollecitazioni. Adesso sta all'Europa e ai singoli governi darsi una mossa, appunto, per cercare di risolvere o perlomeno alleviare il problema della povertà. Grazie davvero, Nicoletta. Buon sabato e buon lavoro. Lei, arrivederci. Grazie. Europost-it. Concorso video Shining Stars of Europe. Avete tra i 13 e i 30 anni e dimestichezza con l'audiovisivo? Il concorso Shining Stars of Europe invita tutti i giovani europei a realizzare un breve videoclip di meno di 90 secondi per rappresentare i loro desideri per il futuro dell'Unione sul tema della partecipazione politica e mostrare un modo innovativo per avere impatto sui processi decisionali nel loro paese o a livello europeo. Una giuria internazionale selezionerà 20 candidati che parteciperanno alle finali a marzo in Lussemburgo e a Londra. Oltre al parere della giuria, i premi saranno determinati da una votazione pubblica e dal voto online. Per inviare la propria clip c'è tempo fino al 31 gennaio. Tutte le informazioni collegandosi al sito shiningstarsofeurope.eu. Facing the fear that the truth I discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything. Che cosa limita la libertà di stampa, l'indipendenza, la sicurezza dei giornalisti e come difendere il diritto all'informazione dei cittadini europei? Questa è la domanda chiave di un convegno che si terrà il 28 gennaio al Parlamento europeo a Bruxelles. È la conclusione di un lungo lavoro, questa giornata intitolata The Swiss Are Lee, Media Freedom in the EU. E con noi c'è Francesca Vanoni di Osservatori Balcani, una delle coordinatrici del progetto. Ciao Francesca, ben ritrovata. Buongiorno, grazie. Cosa succederà in questa giornata? Qual è la fotografia che avete fatto dell'Europa dal punto di vista della libertà di stampa? Questa giornata è una giornata importante, diciamo, perché alla fine del lavoro di un anno che ha coinvolto tantissimi partner in 11 paesi europei, sia di stati membri che di stati candidati all'accesso, ci rivolgiamo ai decisori politici dell'Unione Europea per portare alla loro attenzione un tema di cui è molto difficile parlare per certi versi e in cui abbiamo riscontrato anche delle difficoltà nel creare dibattito. Ovviamente questo tema è stato riportato all'attenzione dal caso di Charlie Hebdo, ma in realtà c'è poca consapevolezza dei problemi legati alla libertà di stampa nei paesi membri e ovviamente nei paesi candidati all'accesso, dove sono ancora più gravi. I problemi che abbiamo rilevato con questo lavoro di un anno sono molteplici e sfaccettatissimi. Sì. Vanno ovviamente da casi più clamorosi di esercizio di violenza fisica, come nel caso del Montenegro, ai giornalisti incarcerati della Turchia o l'aver oscurato dei social media, fino però a casi un po' meno, come dire, meno eclatanti, meno evidenti, o ad esempio l'effetto che la crisi economica in Grecia sta avendo proprio sulla libertà di stampa, ovvero la minaccia della perdita del lavoro rende i giornalisti molto vulnerabili, condizionabili e diciamo più docili a chi fa loro pressioni. Caso siciliano, scusa, finisco solo col caso italiano che è emblematico, infatti. Perché lì addirittura è un uso, o meglio un abuso di mezzi giuridici, di strumenti giuridici a disposizione di tutti, quali le cause per diffamazione o le citazioni per danni milionari, che appunto provocano effetti evidenti o di autocensura o comunque di limitazione del lavoro che i giornalisti dovrebbero fare. 11 paesi d'Europa sono stati l'oggetto dello studio. Francesca, ma c'è consapevolezza tra gli addetti ai lavori di tutto questo? Anche qui è molto variabile. La consapevolezza tendenzialmente c'è, anche se ovviamente tutto le trasformazioni tecnologiche hanno affievolito anche quella di consapevolezza. Ad esempio ci sono alcuni paesi, faccio un esempio, ad esempio di un giornalista del Guardian, quindi si presuppone un professionista comunque in un contesto molto, molto stabile e democratico, che ritiene abbastanza normale ricevere delle minacce sulla sua pagina Facebook dopo aver pubblicato o degli insulti dopo aver pubblicato qualcosa. E quello che manca, oltre alla consapevolezza in molti casi, è la solidarietà rispetto ai casi dei colleghi, ma anche una consapevolezza generalizzata dell'opinione pubblica del fatto che le limitazioni alle libertà di stampa non sono limitazioni a una categoria di privilegiati, ma sono limitazioni al diritto democratico all'informazione di qualità. Certo. www.balcanicaucaso.org per conoscere, immagino, il risultato dello studio e anche per seguire quello che verrà affrontato durante la giornata, che ricordo è il 28 gennaio 2015, sempre sul sito di Balcani e Caucaso, l'intero programma. Grazie Francesca, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Ottava edizione del Premio Europeo Carlo Magno della Gioventù. Favorire la comprensione interculturale, promuovere il sentimento comune dell'identità europea e dare esempi pratici di vita comunitaria sono gli obiettivi principali del Premio Europeo Carlo Magno della Gioventù, che ogni anno viene assegnato dal Parlamento dell'Unione Europea e dalla Fondazione Charles Magne Youth Prize. Vengono premiati giovani che abbiano sviluppato progetti volti a favorire la comprensione tra cittadini di paesi europei diversi. I tre migliori progetti riceveranno rispettivamente 5.000, 3.000 e 2.000 euro e i vincitori saranno invitati a visitare il Parlamento europeo il prossimo autunno. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 2 febbraio. Per tutte le informazioni, charlemagneyouthprize.eu. L'altra Europa. Sono le persone più vulnerabili e traumatizzate perché costrette da guerra, violenza, persecuzione ad abbandonare tutto per sopravvivere. Persone che si aggrappano al coraggio e alla dignità. Sto parlando dei rifugiati. Con l'altra Europa vogliamo raccontare, lo sapete bene, le storie e le persone che fanno questa Europa. Ed ho il piacere di chiudere questa puntata con Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Buongiorno Sami, buon sabato, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno. Cosa significa oggi occuparsi di rifugiati? E su quanti fronti state operando? Significa, guardi, rimanere concertati dalla gravità della situazione e non solo sui fronti che uno può pensare siano più lontani, ma su fronti in realtà molto vicini, proprio come il Sud Europa. Sono appena tornata da una missione di qualche giorno, insomma di una settimana circa, in cui sono andata proprio per le strade in macchina dal confine turco-siriano fino alla Grecia, e accompagnando una troupe di giornalisti, e ci siamo resi conto che le persone che anche a piedi, quindi non solo con le barche che siamo abituati a vedere solcare il Mar Mediterraneo, ma anche a piedi, le persone che si incamminano dalla Siria in prevalenza, ma ancora anche dall'Afghanistan in fuga dei talebani, attraverso tutta l'Europa, sono veramente migliaia e vivono in condizioni veramente sconvolgenti, pensandole soprattutto sul territorio europeo. Voglio dire, assistere a carovane di migliaia di persone che dormono nei boschi, compresi i bambini, si riscaldano con pochi legnetti e cercano di varcare dei confini, vengono respinti e poi riprovano 7, 8, 10 volte. Questo è quello a cui siamo posti ogni giorno. Questo è quello che succede nei mesi invernali, continuerà nei mesi estivi, e nei mesi estivi fronteggeremo anche gli arrivi che ci aspettiamo saranno comunque ingenti, anche in mare ovviamente. Sami, ma come si fa a tenere distinta l'umanità da quella che è la politica, o da quelle che sono anche le problematiche conseguenti all'accoglienza di questi rifugiati? Guardi, dobbiamo affrontare tutto questo con grande razionalità, anzi quello che noi chiediamo è di affrontarlo con umanità sicuramente, ma anche con grande razionalità e senza cedere al panico o alla sensazione di emergenza. Però dall'altra parte non bisogna neanche cedere all'indifferenza, perché l'impressione che si ha è che in realtà l'Europa sia posta davanti a una delle sfide forse maggiori dalla sua nascita, sia in termini morali ma sicuramente anche in termini politici, perché mai come adesso la crisi umanitaria alle porte d'Europa è stata così grave. Il nostro alto commissario anche a Davos proprio ieri ha detto che il sistema attuale è un sistema che non funziona, è un sistema disfunzionale, e d'altra parte le agenzie umanitarie come la nostra, come noi ve ne sono altre, come il World Food Program, come l'UNICEF, siamo mai stati esposti come adesso. Se si pensa che noi si possa andare avanti in questo modo, si fa un errore, perché siamo al limite delle nostre forze. La crisi siriana l'abbiamo definita ed è la crisi peggiore della nostra epoca. La spaventa di più l'indifferenza o il populismo? Beh, l'una porta all'altra, perché l'indifferenza in realtà porta ad una non conoscenza sia del problema che delle soluzioni. E se non si trovano le soluzioni giuste in una situazione sociale, anche se stiamo bene, non è per semplice, anche nei paesi più benestanti, nei contesti più benestanti come il nostro, se non si prospettano le soluzioni giuste, purtroppo si fa sì anche che la percezione sia quella di caricare sulle spalle dei più deboli un problema che in realtà ovviamente non sono loro a dover risolvere. Del resto abbiamo anche visto, io sono andata spesso in Libano, in Giordania soprattutto, ma anche in Turchia, come delle economie, come ad esempio quella turca, che tutto sommato sono in crescita, sono poste sotto una pressione che veramente ha piegato loro le ginocchia, perché in Turchia dover gestire in 3 anni 2 milioni di siriani e spendere 5 miliardi di dollari è qualche cosa che non può essere affrontato con leggerezza, è un qualcosa che veramente piega una società. E in tutto questo l'Europa che ruolo sta giocando? Un ruolo cauto e poco pronto nel definire una strategia che ormai è indispensabile, non può più attendere una strategia che si prenda carico di una gestione ben strutturata di questa crisi, perché l'afflusso di rifugiati sia via terra che via mare non terminerà semplicemente perché verranno costruite delle reti, possibilità di andare a soccorrere in mare aperto i rifugiati sui barconi. Se noi chiuderemo una porta, entreranno dalla finestra, problema è che queste entrate continueranno ad essere irregolari e quindi produrranno l'effetto di finanziare, continuare a far crescere il mercato dei trafficanti. Occorre che ogni paese europeo si faccia carico di una quota, di un certo numero di rifugiati o i casi più dal punto di vista umano più difficili. Sono tante le soluzioni che si possono trovare, dei visti umanitari per i più giovani per permettere loro di finire le scuole. Teniamo presente che i siriani in particolare, ma anche tanti iracheni che cercano di arrivare in Europa, sono quelli che hanno un'istruzione più elevata, avevano un lavoro proprio come il nostro nel loro paese, hanno qualche soldo da spendere per reinvestire nella propria vita, quindi possono anche essere un'opportunità per le nostre economie. Un'Europa meno cauta, anche questo è il nostro auspicio. Grazie davvero a Carlotta Sami, ricordo il sito unhcr.it, il sito dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, ma anche il blog sui temi dell'accoglienza tenuto dalla Sami, che è popolinfuga.blogautore.repubblica.it. Buon sabato e buon lavoro Sami, grazie ancora. Grazie, arrivederci. Questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia e a tutta la squadra dell'Altra Europa, Miriam Lucchetti che con me ha scritto la puntata insieme a Silvia Righini, Valerio Rocchetti oggi alla parte tecnica, in assistenza c'era Pietro Gentile. L'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia.